Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Incidente mortale in provincia di Spoleto. Un bimbo di 8 anni e il padre di 45 sono morti in seguito all'impatto frontale tra due vetture. L'impatto violentissimo non lascia scampo agli occupanti delle auto. I quattro muoiono sul colpo, tra cui due giovani di 24 e 28 anni. Il tragico impatto frontale tra le due moto di grossa cilindrata proprio in questo punto dove tre ragazzi purtroppo hanno perso la vita. Vigili del fuoco ai quali spetta il compito più penoso, quello di estrarre dalle lamiere attorcigliate delle vetture coinvolte in questo incidente terribile i corpi delle cinque persone morte. Stanno tornando da una festa intorno all'1:30 di notte in sella ai loro scooter lungo la statale 640 in contrada Maddalusa da Grigetto, quando sono stati travolti. Non voglio seminare allarmismo, naturalmente, ma vorrei portare a riflettere chi mi ascolta in questo momento che i dati sulle vittime degli incidenti stradali molte volte non suscitano quell'emotività che in realtà susciterebbe un altro tipo di falcidia di esseri umani. Se vi dico che 11 persone al giorno in media muoiono sulle strade, voi dite vabbè sì, fatalità, tutti dobbiamo guidare naturalmente. Degli grandi incidenti stradali si parla solo quando il protagonista è magari un personaggio noto come Vittorio Sgarbi, che si è guadagnato grande visibilità televisiva per un incidente, un'uscita di strada in cui il suo autista è uscito piuttosto compromesso, ma in realtà fa parte della fatalità della vita. Bisogna pur morire in qualche maniera, si muore anche per strada. Ma se dicessi c'è una guerra civile in Italia, 11 morti ogni giorno per la guerra civile, la gente direbbe: Dio mio, che paese siamo? Cosa succede? Allarme? Ci spariamo per strada? No, non ci spariamo per strada, ci andiamo a schiantare con le nostre automobili. C'è stato un rapporto recentissimo, proprio di pochi giorni fa, fatto dall'Automobile Club Italiano e l'Istat, che dà qualche cifra, e su queste cifre oggi vorremmo riflettere. 800240024. Secondo il rapporto ACI Istat, ogni giorno in Italia si verificano in media 563 incidenti stradali che provocano la morte di 11 persone e il ferimento di altre 800. Nel 2011 sono stati rilevati più di 205.000 incidenti che hanno causato il decesso di 3.860 persone e il ferimento di altre 292.000. Rispetto al 2010 si riscontra una lieve diminuzione del numero degli incidenti, meno 2,7%, dei feriti, meno 3,5%, e un calo significativo del numero dei morti, meno 5,6%. 800240024, prima di avere il commento sui dati, quali sono secondo voi le cause? Già vedo che su Facebook molti stanno esprimendosi. Carmelo dice: le autoscuole regalano le patenti, troppo facile avere la patente. Piera invece dice: ormai nessuno pensa solo a guidare, il multitasking compulsivo ci porta a telefonare, fumare, truccarci, scegliere la playlist, cazzare i figli, discutere col partner, facciamo tutto tranne che guidare. Sono questi i motivi o ce ne sono altri? Maggio è il mese con più sinistri, agosto quello in cui si registra il picco di mortalità, sabato il giorno con più morti, le 18 l'ora più critica. Di notte si verificano meno incidenti ma più pericolosi e i weekend sono fortemente a rischio. I giovani tra i 20 e i 24 anni, le principali vittime di incidenti mortali. Il maggior numero di incidenti, morti e feriti si verifica sulle strade urbane, ma quelli più gravi avvengono sulle extraurbane. Più sicure le autostrade. Dottoressa Lucia Pennisi, buongiorno. Buongiorno. La dottoressa Pennisi è la responsabile dell'area statistica dell'Automobile Club Italiano, che ci dà questa mattina un aiuto a riflettere su questi dati. Ma in studio c'è anche Riccardo Alemanno. Buongiorno. Riccardo, buongiorno, che è direttore dell'ACI di Roma. Riccardo Alemanno è una presenza straconosciuta a questi microfoni, non soltanto nella sua veste ufficiale direttore dell'ACI, ma anche nelle sue produzioni di altro tipo, artistico, canoro, inutile sottacere quello che è una delle caratteristiche di Alemanno. Allora, dottoressa Pennisi, i dati alla prima lettura possono sembrare, io ho anche spinto l'acceleratore su questo, possono sembrare dati allarmistici, però in realtà mi sembra di vedere che rispetto all'anno precedente abbiamo raggiunto dei risultati, anche se è una strage notevole, 11 persone in media che muoiono ogni giorno. Sì, esattamente. I dati sono comunque allarmistici e sottolineano che abbiamo ancora spazio per migliorare questa situazione, per comprimere il numero di morti sulla strada, che sono veramente un peso per tutti. Sono però dall'altra parte confortanti, perché l'Italia ha iniziato nel 2003 un periodo di diminuzione, un trend virtuoso di diminuzione di incidenti e di morti, che continua anche nel 2011. Infatti c'è stata una riduzione, i morti sono diminuiti del 5-6%. E cosa ha fatto l'Italia per far morire meno persone per le strade? Ma sicuramente le cause di questi trend sono tante, a partire dalle campagne di informazione, di sensibilizzazione, a partire dai controlli sulle strade. C'è sicuramente molta più attenzione alla sicurezza stradale, i veicoli, soprattutto quelli nuovi, hanno più dotazioni di sicurezza e quindi sono più... sono più sicuri nell'evitare l'incidente o nel mitigarne le conseguenze. Cioè, insomma, quanti le morti sono stati risparmiati in un anno? Ecco, mettiamola in maniera cruda, però così almeno è comprensibile. Guardi, l'anno scorso le statistiche contavano 4.090 morti e quest'anno 3.860. C'è da dire che all'inizio del 2000, quando l'Europa ci ha dato l'obiettivo di dimezzare le morti sulla strada, eravamo a livelli di 7.100 morti, quindi siamo arrivati a 3.860, non siamo alla metà, però insomma abbiamo raggiunto il nostro 45-6% di diminuzione, che è superiore rispetto alla media europea, quindi in questo possiamo essere ottimisti. Ecco. E soprattutto c'è questo trend che ha iniziato la discesa e continua anno più, anno meno, però ad essere in decremento. Sentiamo Gianluca, un ascoltatore, il primo ascoltatore. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Allora, prima di tutto è stato fatto un mescolume strambo nel tempo tra l'introduzione delle cinture di sicurezza, degli airbag e altre norme che dovevano servire a migliorare le cose. Mescolume, chi l'ha fatto il mescolume? Mescolume l'ha fatto l'informazione, l'ha fatto lo Stato, l'ha fatto anche l'ACI, l'hanno fatto tutti. Mi spieghi meglio, perché voglio capire bene. Sì, molto semplice. Esempio, l'introduzione dei limiti di velocità e l'aumento dei limiti di velocità è avvenuto in concomitanza con l'obbligo delle cinture di sicurezza davanti e dietro, no? E questo avrà diminuito sicuramente le vittime. Quello ha diminuito enormemente. I limiti di velocità praticamente sono serviti a poco o a nulla, vengono inaspriti sempre di più. In compenso abbiamo automobili dove si arriva a sentire delle pubblicità dove si dice: e poi, dopo avere fatto le 7.000 cose che ti fa fare la macchina di infotainment, no? Puoi anche guidare. Siamo arrivati all'assurdo che per un periodo di tempo vedevamo sulle autostrade la scritta guidare con attenzione. Siamo ritornati al guidare con prudenza. La prudenza molte volte si associa alla disattenzione, alla sonnolenza e alla distrazione. E perché questo? No, questo non mi è chiaro, scusi. Se uno è prudente, perché deve essere assonnato? Io posso essere vigile e prudente. Vigile e prudente, sì, certo, pochi. Andare piano, molto tranquilli, trafficando con 7.000 cose che ci sono in macchina. Ma quella è contro la legge, contro ogni regolamento, non deve farlo. Se lo fa, lo fa a suo rischio. Il problema è che le caratteristiche dei veicoli vanno verso una guida sempre più rilassata, sempre meno impegnata. Ma cosa fa? Toglie l'autoradio e mette i bulloni spinosi sul sedile dell'automobile e fa sta svegli. Scusi, l'auto deve aver comfort. Diciamo che nelle automobili oggi esistono sistemi di viva voce per il telefono che potrebbero usare tutti. Ancora vedo gli idioti col telefonino all'orecchio compulsivi nelle strade cittadine, e questo è un problema loro, di loro cultura, perché mi sembra sia molto chiaro. Riccardo Alemanno, vediamo se riusciamo però a entrare nello specifico rispetto anche a quello che ha detto l'ascoltatore. Esistono secondo te dei malcostumi tipici italiani che danno possibilità di aumentare queste percentuali? Perché dire che le automobili sono troppo confortevoli è un mercato, è chiaro che l'automobile deve essere confortevole per essere venduta e chi guida vuole un'auto confortevole. Beh, l'intervento dell'ascoltatore comunque, quando richiamava la prudenza, l'attenzione, non era fuori strada. Secondo me, ovviamente, trovare una correlazione con i limiti di velocità e tutte le normative mi sembrava un pochino forte come affermazione. Però in effetti che la guida distratta sia una delle più gravi cause di incidenti è fuori di dubbio. Io poi, tra l'altro, avendo qui la collega Lucia Pennisi, che può parlare molto meglio di me di statistiche, essendo nella coordinatrice, ho il mio osservatorio privilegiato della città di Roma. Quindi è vero, al di là dei limiti di velocità, la velocità poi chiaramente va regolata a seconda delle circostanze. Ed ecco che la velocità è infatti una delle cause che è peggiorata rispetto all'anno precedente. Roma, in sostanza, ha visto un aggravamento rispetto alle statistiche che sono migliorative. Quindi noi in effetti vediamo come velocità, guida, mancato rispetto dei segnali e appunto la distanza di sicurezza, la distrazione, come sempre le classiche cause. E sono cause che richiamano proprio all'attenzione, alla prudenza. Basterebbe attenersi alle norme, tanto per iniziare, per rischiare meno. Bisogna essere più che attenti rispetto alle norme, perché chiaramente un limite di 50 all'ora non vuol dire che una persona può spingersi fino ai 50 all'ora. A seconda delle circostanze la velocità può essere regolata anche a 10 km all'ora. Quindi ci vuole attenzione. E le auto indubbiamente in questo possono indurre a delle distrazioni, perché sono in effetti dei luoghi piuttosto, diciamo così, estensioni, l'abbiamo detto tante volte, del comfort casalingo, diciamo così. Bisogna stare attenti, prestare attenzione. Sentiamo Alfio. Mi piace questa cosa che bisognerebbe forse ritornare a un'automobile più spartana per essere più sicuri, ma chi rinuncerebbe all'aria condizionata, chi rinuncerebbe allo stereo, chi rinuncerebbe allo specchietto retrovisore automatizzato, chi rinuncerebbe al sedile autogonfiante sotto le emorroidi? Nessuno, e quindi naturalmente il mercato va in questa direzione. Alfio. Buongiorno. Sì, la sto sentendo. Sì, niente, innanzitutto complimenti, e poi se posso cambiare un attimo lo standard rimanendo sempre nel tema, io avrei un'idea su come limitare fortemente il numero dei morti sulle strade. Siamo tutti orecchi qua. Noi vediamo che abbiamo sempre veicoli che possono raggiungere velocità sempre più elevate, che ci danno una tenuta di strada maggiore nelle curve, e quindi siamo normalmente spinti ad utilizzare, anche perché il tempo oggi è quello che è, ad utilizzare il nostro veicolo per spostarci nel più breve tempo possibile. Del resto la natura dell'auto è questa. Però se noi invece di costruire un mezzo che va a 180 km orari e poi farmi fare un auto velox soltanto fine a se stesso, perché non ha risolto niente, chiunque viene colpito da un provvedimento del genere paga e basta. Però in realtà può andare lo stesso alla stessa velocità. Se invece noi la limitiamo questa velocità, come? Con un criterio abbastanza semplice. Ci sono dei sistemi oggi di controllo che sono attivi anche sulle ferrovie, per esempio, che limitano la velocità del veicolo in funzione delle condizioni della strada. E lei è convinto si venderebbero automobili con un limitatore di velocità? Limitatore di velocità non lo devo mettere io. Devo essere inserito nell'auto. Ma posto, ma si venderebbero, secondo lei? Allora io mi fa venire in mente quando andavano le Vespette 50, che uno appena la comprava gli sfondava la marmitta, ma cambiava il carburatore. Scusa, non mi sono spiegato bene. Non si tratta di questo. Non sto dicendo che deve andare a 50 la macchina. No, lei ha detto dicendo limitare la potenza della macchina. Limitare la velocità in funzione di tanti fattori. Ad esempio, se noi siamo su un'autostrada e abbiamo una Ferrari, sicuramente camminando alla velocità di 130 km orari siamo in una situazione di sicurezza, ovviamente con l'attenzione dell'autista. Non è la stessa cosa se lei sta guidando una Smart a 130 km orari sull'autostrada, dove la stabilità del veicolo, non per colpa del costruttore ma per colpa dei fattori contingenti, ovviamente non è paragonabile a questo. Allora, se noi stabiliamo un sistema, un criterio... Ma esiste questo sistema? Cioè vorrebbe... cos'è? Esiste, sì, esiste. L'ho progettato. Lei l'ha inventato. E lo dica subito. No, ma voglio dire... Lei è un inventore, ha l'invenzione del secolo. Non ho inventato quasi niente, voglio dire. Non è che c'è bisogno di chissà quale scienziato, però se noi diamo una possibilità all'autorità... Ma su cosa agisce? Un limitatore al carburatore? Come fa a limitare la velocità? Guardi, oggi tutte le macchine sono dotate di una centralina elettronica che stabiliscono quanto carburante va quando gli soffoca, l'alimentazione, la macchina va più piano, è ovvio, però nel momento in cui c'è la necessità che vada più piano, lei immagina un tratto di autostrada da 130 sì, ho capito. Le chiedo scusa. È un banco di nebbia che improvvisamente sappiamo che si trova in una determinata località. L'autorità competente su quel territorio può, agendo su un computer, su un'apparecchiatura, limitare la velocità di tutti gli autoveicoli che si avvicinano. Quindi lei vuole un sistema wireless in un paese in cui ancora il cablaggio per semplicemente navigare in internet è una cosa che sembra appartenere ad altri universi. Un sistema wireless in cui ci sia una centralina che dà un input via wifi alle automobili in arrivo e la centralina automobile percepisce lo stato di bisogno e automaticamente decelera. Se lei riesce a imporre il suo brevetto, ha aiutato l'umanità. Dottoressa Pennisi, rispetto all'invenzione del nostro ascoltatore. Ma sicuramente le auto sono sempre più dotate di sistemi che interagiscono con la strada, no? Perché adesso abbiamo il sistema che riporta l'auto in carreggiata quando la macchina sbanda, però sono ancora questioni molto di nicchia, non sono ancora credo analogici che siamo legati, ancora al manto stradale. Pronte al manto stradale, non credo che siamo pronti. Che è in un futuro possibile l'auto intelligente potrebbe essere una soluzione. Poi mi sembra un po' avanti. Senta, perché la fascia più a rischio è proprio quella dei ventenni, i più giovani che sembrano quelli più lucidi? La fascia più a rischio in questi ultimi anni, in questi dati, sono i 20-24 anni, sono quelli più a rischio di incidente mortale. Secondo lei, un suo giudizio? Innanzitutto penso che lo possiamo legare anche al mezzo di trasporto, perché il motociclo ed il motociclo soprattutto sono il veicolo su cui avvengono il maggior numero di morti e quindi spesso è la più pericolosa e sono giovani e questo soprattutto nelle città, ovviamente. Ma una cosa, dottoressa, questi dati sono molto parziali, in realtà non sono tutti gli incidenti che accadono, sono quelli che sono stati registrati. Questi sono i dati degli incidenti che sono stati, in cui è intervenuta un'autorità di polizia, quindi che sono stati verbalizzati e in cui ci sono stati o morti o feriti. Ovviamente non ci sono tutti gli incidenti con solo danni a cose, come non ci sono gli incidenti in cui non è intervenuta l'autorità di polizia, perché la fonte è proprio la polizia. Quindi polizia ottimistico stradale, come dato, tutto polizia sommato. Locale, carabinieri, insomma nelle sue varie declinazioni. Sentiamo Danilo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare un intervento velocissimo proprio su questo argomento, e cioè mi riferisco alla morte giovanile. Sappiamo che gli incidenti sono la prima causa, perché penso che si possa almeno limitare o comunque contenere questo fenomeno rendendo obbligatorio un corso di guida speciale, di guida veloce, laddove si acquisti un mezzo, che sia auto, che sia moto, ma che comunque abbia un rapporto peso-potenza superiore a certi livelli. Oggi invece succede che chiunque ne ha facoltà entra in un concessionario, si compra una moto praticamente da pista vicino a quelle da Gran Premio, prende, va in strada senza essere minimamente conscio né dei propri mezzi, le proprie risorse, le proprie capacità, né tantomeno di quella del mezzo. Sì, solo una cosa non mi è chiara, poi sentiremo Riccardo Alemanno, che è anche motociclista oltre ad essere direttore dell'ACI, quindi magari anche qualcosa della sua esperienza personale. La corso guida veloce per andare in pista, perché andare nelle nostre automobili, assolutamente, ci sono i limiti di velocità nelle città, più di tanto non si può andare, uno può avere anche d'accordo, però torniamo a dire, ci sono dei limiti, ma di fatto se la gente muore per le strade perché i limiti non li rispetta, diamogli almeno la consapevolezza di che cosa hanno in mano, cioè di infrangere la legge non rischiando la vita. Questa è la sintesi. Diciamo che no, non è esattamente questo. Guardi, le dico anche per esperienza personale, io ho la moto da tanti anni, ma le dirò che sono andato in pista diverse volte, ma non tanto per non andare in pista per andare a fare i tempi. In pista perché lì in sicurezza si acquisisce consapevolezza di che cosa si sta facendo. Questo mi sembra saggio, avere la capacità di gestire mezzi che sono mezzi potenti, ma non certo per andare più forte. Riccardo Alemanno. No, io intervengo per dire che in effetti a Roma gli incidenti dei motocicli sono aumentati. Allora, per quanto riguarda il nostro ascoltatore, direi molto velocemente che il corso di guida è importante. Noi lo facciamo fare a tutti quelli che frequentano le nostre facciamo fare un corso di guida light, diciamo leggero, a quelli che frequentano le nostre autoscuole, perché permette comunque di conoscere i limiti del veicolo. È vero questo, cioè noi non sappiamo in effetti quando corriamo, quando quelle persone che guidano, che corrono, che vanno allegramente sulle strade, spesso non hanno mai provato cosa significa andare in testa coda, cioè non hanno mai sentito il limite del veicolo, quindi vanno avanti finché poi, quando questo limite viene raggiunto, è troppo tardi. Se ne accorgono quando assaggiano l'asfalto con i denti, è questo il problema. Che è anche un punto un po' estremo. Mi diverte che il trend della risposta del pubblico, almeno via SMS, è quello della grande creatività. Prima abbiamo sentito un ascoltatore che aveva in mente un sistema autobloccante dell'auto condizionato dalle condizioni atmosferiche, dal traffico e via dicendo. Mi scrive un altro ascoltatore che vorrebbe un dispositivo che rallenta o ferma l'automobile se il guidatore è in stato di ebbrezza. Ho in studio la dottoressa Lucia Pennisi, che è la responsabile dell'area statistica dell'ACI, con la quale commentavamo i dati di questo rapporto ACI-ISTAT sugli incidenti stradali. C'è sempre una tendenza, comunque vedo da parte del pubblico, a deresponsabilizzare quello che è l'intervento umano. Vorrebbero delle automobili intelligenti che ci impedissero di avere incidenti. L'alcol test incorporato all'automobile è un sistema che già esiste, mi pare. Beh, è un sistema che, diciamo, è stato inventato, che esista nel senso che sia diffuso, non è commercializzato, anche perché le case automobilistiche non sono pronte ad inserirlo sulle vetture di serie o comunque in modo abbastanza massivo. E anche come optional sarebbe comunque un optional molto costoso, perché... Ma come funziona? Se uno è in stato di ebbrezza... Se uno è in stato di ebbrezza, diciamo che c'è questo apparecchio che se il guidatore, il conducente, quando entra in auto e cerca bevuto, sente l'alito e fa sì che il veicolo non parta. Ma se uno è seguito da una muta di cani assassini non si può salvare la vita in quel caso? Quel punto di... sono delle circostanze in cui secondo me è molto pericoloso non far partire l'automobile. Certamente. Io posso essere in stato di ebbrezza, aver necessità comunque di vita o di morte di partire con la mia automobile. In questo caso non è che affidarsi a una tecnologia assolve l'individuo dalle responsabilità. No, certamente. In effetti si pensa di più a questi sistemi magari per certi tipi di veicoli, per esempio per i camionisti, i veicoli industriali, oppure per veicoli di trasporto passeggeri, gli autobus, dove potrebbe avere un senso perché magari si salva la vita o... appunto delle persone, dei passeggeri. Sentiamo Cesare, l'ascoltatore. Però... Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Guardi, tante cose, praticamente quelle che si dovrebbero fare sono state fatte, ne avete già parlato, i veri motivi perché non si risolve completamente il problema. Allora, lei prima, rispondendo all'ascoltatore, ha detto: ma lei se la comprerebbe un'auto che non può superare i 130 km orari? Questo già è la prima risposta, di uno dei tanti motivi perché non si fanno certi passi. Allora, io guido un autocarro e un'automobile per quello circa 70-80 mila chilometri l'anno, quindi penso ad avere un po' chiara la situazione. Si è parlato dei limiti, verissimo, i limiti vanno messi, uno dei problemi dei limiti è che sono poco chiari. Io percorro una statale, la Pontina, che è una delle strade più pericolose d'Italia. In molti punti non si riesce a capire qual è il vero limite La segnaletica non è chiara in questo senso. I limiti non ne servono 10.000, ogni 100 metri cambia un limite. Ogni 100 metri cambia un limite. Se si va a una statale si deve andare a 90 all'ora, sappiamo che quel limite, si va a 90 all'ora e basta, perché la velocità è sempre un pericolo per tutti. L'ascoltatore prima parlava della Ferrari che va a 130 è più sicura della Smart, però si è dimenticato di dire che sulla stessa strada va sia la Smart che la Ferrari, quindi alla fine il pericolo è per tutti e due. Poi il discorso della tecnologia. Allora, io percorro molto e per cercare di evitare gli autovelox ho un dispositivo che segnala gli autovelox. Allora, io da quando non solo non segnala tutti gli autovelox, ma segnala anche i limiti. Vabbè, basta il TomTom, qualsiasi navigatore oggi segnala tutto. Sì, allora mi sono reso conto che da quando ho quel dispositivo sono molto più attento anche ai stessi limiti di velocità. Da quando ho un'automobile che mi segnala col fastidioso suono che non ho le cinture di sicurezza, sono diventato molto più rispettoso anche delle norme sulle cinture di sicurezza. Allora ci vuole poco. L'SP, quello che non so prima che ha parlato, che è un sistema di sicurezza, non si riesce a capire perché non debba essere obbligatorio su tutte le automobili. Io sono rimasto stupefatto quando ho acquistato un autocarro 2 anni fa, ero sicuro al 100% di avere l'SP, invece non era... Non spiega bene cosa si tratta, è il sistema... Le SP è il controllo di stabilità in frenata, che è molto, molto utile, in frenata del mezzo. Qualsiasi, allora, se si sta sbandando, frenando, l'SP regola la frenata sulle diverse ruote in base all'angolo di sterzata del volante e ti riporta in carreggiata, o a destra o a sinistra, ti aiuta a riportare in carreggiata, perché da solo, invece, in quel modo, frenando soltanto sul lato della macchina, la macchina tende a essere riportata in carreggiata. Allora, quel sistema lì costa 200 euro, mi sono informato, su un autocarro costa 200 euro, non si riesce a capire perché non sia obbligatorio per tutti i veicoli. Guardi, io molto più semplicemente, adesso non entro in dettagli tecnici, sapendo che esistono dei sistemi di viva voce, io ancora mi meraviglio, l'ho detto già all'inizio della missione, perché ancora le persone tengano il cellulare in mano per telefonare in macchina, quando esistono i sistemi che col Bluetooth prendono il telefono appena uno entra in macchina, è comodissimo, utile, e ancora vedo persone col cellulare che pensano una delle cause più deleterie di disattenzione. Riccardo Alemanno, direttore dell'ACI di Roma. Io voglio dire, per sintetizzare, che in effetti i dati romani sono anche confortanti, ad esempio per il fatto dei giovani. I giovani sono morti di meno, fortunatamente. Ci sono tanti fenomeni che richiedono attenzione nella convivenza tra pedoni, automobilisti, motociclisti, ciclisti. La strada è popolata da tante realtà. Però devo dire che noi abbiamo fatto con le nostre autoscuole, che propongono un metodo molto particolare, si chiamano Ready to Go, e sono 26 nella nostra provincia, siamo stati molto attenti ad insegnare la cultura della sicurezza. Cioè, noi vediamo che si richiedono molte volte sistemi di ripetizione a bordo come i treni, limitazioni di velocità, blocco in caso di stato d'ebbrezza. Ma è evidente che si tratta di una cultura che deve cambiare. Cioè, la cultura secondo cui la persona, ed ecco che i dati sui giovani ci confortano, riesca a conoscere questi sistemi, conosca il mezzo e chiaramente sappia che questo mezzo, che la patente, il circolare, è frutto di una cultura che deve cambiare, ma che deve nascere sin da ragazzini, sin da piccoli. Beh, c'è la generazione ancora degli anziani guidatori che ha dei moti, dei conati di vomito se deve mettersi la cintura di sicurezza. I ragazzi, certo, oggi è automatico mettere la cintura di sicurezza. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Sì. Stefano da Varese. Sì, buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno. Senta, io a parte che volevo dire che mi trovo abbastanza d'accordo col dottor Alemanno, ma volevo lanciare una provocazione. Io facevo parecchia strada, anche extraeuropea, europea extraeuropea, ma in quello che vedo io, ma in Germania per esempio, tanto per dirne una a caso, pur si è parlato tanto di limiti, pur essendo senza limiti, con un tipo di strada diverso rispetto a quello italiano, come hanno molti meno incidenti, molti meno morti. Ma a me mi sembra che invece sia al contrario, in Germania siano di più, vero dottoressa? Sì, Appendisi. Purtroppo la devo smentire, perché in Germania ci sono, almeno nel 2011, ci sono stati più morti che in Italia, più incidenti, e soprattutto c'è stata quell'inversione di tendenza, sono aumentati i morti rispetto al 2010. Quindi su questo la devo smentire. Insomma. Diciamo che esiste anche un fenomeno, non posso fare a meno di dirlo perché l'abbiamo parlato più volte, chissà perché in Italia ci sono tantissime macchine, soprattutto macchine grossa cilindrata, immatricolate tedesche, perché è un sistema di leasing truffaldino, con quelle macchine possono violare qualsiasi limite del nostro codice stradale e le multe non possono essere pagate. Questo purtroppo entriamo in un altro argomento anche abbastanza spinoso, ed è la questione delle multe ai veicoli stranieri. Il leasing stranieri. I leasing stranieri e l'esportazione di veicoli di grossa cilindrata, che è aumentata anche quella soprattutto nell'ultimo anno, diciamolo chiaramente, anche per motivi fiscali. Ma perché certo, laddove il fisco in Italia va a colpire una certa categoria di veicoli, si trova il sistema io non ho mai visto tante macchine immatricolate in maniera strana appartenenti Germania, ai cittadini italiani. Germania, Romania, Polonia sono in ce n'era una bellissima che ho fotografato e messo su Facebook, l'Italia, parcheggiata su una rampa per handicappati, ma c'è una targa straniera, nessuno potrà e farle purtroppo nulla. Non si riesce nemmeno a multarle perché non c'è un accordo tra Italia e Germania, non c'è un accordo a livello internazionale nell'Europa, si sta lavorando, ma per arrivare soprattutto a scambiare i dati e quindi a poter fare le multe per certi tipi di infrazioni. molte volte in autostrada, si meraviglia, ci vedo passare una macchina a 250 all'ora, perché ha una targa straniera, chi la guida magari è un venditore di aspirapolvere italiano che ha trovato questa furbata per eludere il fisco, eludere le multe, fa da padrone, fa come quello vuole. Questo spero che ci siano, qualcuno si stia attrezzando per limitare questo fenomeno. Beh, noi anche come ACI ci stiamo lavorando, lo stiamo analizzando, lo stiamo studiando e credo che presto usciremo anche con un quadro su tutti questi fenomeni distorsivi della circolazione. Velocemente, Andrea, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Senta Gianluca, io sono, tanto per dare un'informazione, io faccio circa 120.000 km all'anno e sinceramente il problema reale che vedo io è il livello di maleducazione, di arroganza e la volontà di andare molto più forte del codice della strada. Cioè io mi accorgo in tangenziale se sono a 90 all'ora o addirittura i furgoni o i camion dietro che mi fanno i fari e mi suonano. Certo, questo è verissimo, lo so perfettamente, sì sì. È una cosa improponibile, in città non le dico, cioè se io adesso sono fermo a un semaforo, io le garantisco che se non dovessi mettere la marcia subito e partire immediatamente modello Alonso, avrei già dietro uno, uomo o donna che sia, giovane o vecchio che sia, che mi suonerebbe. Con le vene del collo che scoppiano, che la manda quel paese, non si sente niente dietro l'oblò del finestrino, però immagino che tutte, lo so, la gente tira troppa cocaina in Italia, è troppo nervosa, quando sta alla guida pensa a mille altre cose, ci sono vari problemi, abbiamo già toccati. Comunque lei ha tirato fuori anche il fattore umano, finalmente, perché sennò sembra che solo problemi di segnaletica, di veicoli, di leggi, normative, chi guida poi è un essere umano. Stefano da Modena. Buongiorno, salve Nicoletti, Stefano Livio. Ho chiamato, visto che sono esperto del settore, mi posso definire tale, visto che 26 anni che faccio l'istruttore di guida sicura e anche il formatore degli istruttori di guida sicura. In questo momento collaboro con l'Autodromo di Modena, che ha deciso di sposare la mia linea didattica. Le spiego, abbiamo messo a punto io e il professor Giorgio Guidetti, che è vostro collaboratore, tra parentesi esperto delle problematiche legate alla vestibologia. Il mio studio durato sul campo 25 anni ha evidenziato una problematica che pone al centro proprio le persone, non gli strumenti. Nella piramide della guida il vertice è la persona e soprattutto la percezione che le persone devono avere durante la guida. Mi sembra sacrosanto finalmente, ecco. Ecco, allora le dico questo, 25 anni di esperienza empirica sul campo mi hanno portato a questo studio perché avevo notato che nessun patentato, neopatentato o patentato con esperienza adottava la strategia corretta per la percezione della strada. Sembra incredibile, anche perché per sua natura il problema tende a nascondersi. Le posso garantire che nessuna persona che ha partecipato ai corsi di guida sicura utilizzava nel modo corretto i suoi occhi, nel senso non guardavano nel posto giusto al momento giusto. Questa problematica è la base di milioni di incidenti, di mancate percezioni, quello che si definisce a volte attenzione, sono delle mancate percezioni anche di persone che sono attente, ma non adottando la giusta strategia oculare, non governando i cosiddetti movimenti saccadici. Anzi, le dico che il lavoro che abbiamo fatto e pubblicato sulla rivista ufficiale di medicina dello sport a dicembre scorso si chiama Movimenti saccadici e performance, studio firmato da professor Guidetti, da altri professori e da me, e spiega perché l'azione che si ha alla guida è derivata esclusivamente da dove si guarda. La domanda è: ma come mai le persone non guardano il posto giusto nel momento giusto? Questo è troppo lungo da spiegare, si entrerebbe troppo nel merito. Però scusi, la soluzione potrebbe essere di aggiungere un modulo in più ai normali corsi di guida che si fanno. No, noi le spiego, infatti i corsi di guida sicura finora così strutturati sono andati molto bene, però mancavano di questa evoluzione, nel senso che io avevo notato che dopo un corso di guida sicura rimaneva la consapevolezza nelle persone, ma la tecnica acquisita andava persa rapidamente perché mancava un modello operativo da applicare costantemente sulla strada dopo il corso, in modo tale da poter fissare questo modello operativo nel tempo, altrimenti si tende a perderlo. Ecco, questo studio porta esattamente a questa situazione. Si riesce a far capire alle persone qual è il modello operativo, quali sono i dettami per il controllo oculomotorio, in modo tale da poterlo ripetere anche finito il corso e quindi di 20-30 giorni, perché questa è la durata che il cervello... Sì, comunque questo mi sembra chiaro, non entriamo troppo, sennò parliamo del corso aggiuntivo, però mi sembra chiaro, dottoressa Lucia Pennisi, che l'ascoltatore ci porta l'attenzione su quella che è il fattore umano, perché senza volere sottacere o nascondere nulla tutti gli altri problemi. Però vedo che molte telefonate mi arrivano sulle categorie più deboli delle vittime degli incidenti stradali, pedoni e anche ultimamente anche molti ciclisti. Sì, ultimamente, anzi quest'anno abbiamo registrato un'allerta ciclisti, diciamo, non che non ci fosse, perché noi abbiamo sempre, parliamo sempre delle categorie più deboli. Però si va più pedoni in bicicletta e ultimamente. Ciclisti. Ultimamente forse anche perché si va più in bicicletta, anche per la crisi economica, molte persone hanno ritirato fuori la bicicletta. Abbiamo avuto un alto numero di vittime di ciclisti, anzi sono aumentate rispetto all'anno scorso e hanno fatto segnare un bel 7% in più, che contro, insomma, per chiuse numeri, contro un meno 5% di morti, il 7% in più di ciclisti, 282 vittime nel 2011, è una questione molto grave e a cui bisognerà porre attenzione. Come diceva prima anche Riccardo, bisogna imparare a convivere sulla strada, sapere che non siamo tutti automobilisti, ci sono utenti più deboli. Un ciclista, è ovvio che se ha un incidente è la parte più debole, ne avrà le conseguenze maggiori. Anche i ciclisti però, devo dire, possono avere le loro accortezze, perché devono imparare a comportarsi da veicoli. Molto spesso i ciclisti pensano, per il fatto di essere in bicicletta, di poter fare quello che vogliono, come se anziché stare su una strada insieme appunto agli automobilisti, agli altri veicoli, stessero facendo una passeggiata. In questo momento sono in subbuglio i ciclisti, perché qualcuno parla di patente di targa delle biciclette. Delle biciclette, sì, anche loro devono imparare a non commettere infrazioni, ad andare nel senso di marcia dei veicoli, non prendere, attraversare e tagliare la strada, perché in quel momento si trasformano in pedoni e magari passano l'incrocio quando è appunto il verde per i pedoni e loro attraversano. Possono anche usare degli accorgimenti con l'abbigliamento, farsi vedere, perché di notte per esempio devono imparare ad avere le luci, ad avere catarifrangenti, frangenti, ad avere indumenti, giubbotti luminosi. Dottoressa Pennisi, un altro tema che vedo molto dibattuto è quello delle rotatorie. C'è chi dice che in Italia ne fanno troppe, perché dice che ci siano dietro fondi europei da attingere, e chi dice che ce ne sono poche che più limiterebbero i danni. Lei come la pensa? Allora, le rotatorie diciamo che limitano i danni per il fatto, proprio per un diverso impatto che si ha nell'incidente alla rotatoria, non limitano gli incidenti, limitano i danni in caso di incidente, perché ci si fa meno male, perché l'impatto non è frontale, è a velocità in genere inferiore, perché arrivando alla rotatoria si rallenta per immettersi nella rotatoria. Però diciamo che non sempre gli automobilisti sanno come ci si comporta sulla rotatoria. Sì, c'è molta perplessità. C'è molta perplessità, molte persone passo, non passo, tocca a me, oppure tocca... persone che pensano che per il fatto che vengano da destra hanno la precedenza, come ad un incrocio normale. Sulla rotatoria la precedenza la ha chi è già sulla rotatoria. Quindi queste sono... diciamo nozioni che bisogna sapere, che bisogna rinfrescare, e poi sempre la prudenza. Poi per le rotatorie le stanno facendo dappertutto, la rotatoria deve essere anche fatta in un certo modo. Abbiamo delle rotatorie, a volte mi ricordo, ecco qui faccio un esempio personale, all'Isola d'Elba una rotatoria in un incrocio in cui era difficile girare intorno alla rotatoria, per quanto era piccolo e rapido, diciamo, per quanto era piccoli stretta. Comuni che ogni 5 e quindi in quel caso ovviamente forse sarebbe stato meglio lasciare l'incrocio. Nell'idea del sospetto molte volte che le rotatorie siano anche determinate dal profitto di chi le costruisce, viene, è lecito che venga. Riccardo Alemanno, continuano a scrivere persone di associazioni vittime della strada, non faccio in tempo a mandare le telefonate, lamentandosi del fatto che molte volte, soprattutto le strade al sud, le strade provinciali, c'è una scarsa, se non pessima, manutenzione, molte volte il problema delle strade. Sì, noi abbiamo avviato un progetto Strade Blu, in cui abbiamo perlustrato metro per metro due strade statali nazionali, quest'anno ne perlusteremo un'altra. Abbiamo trovato, diciamo, tante irregolarità, tanti cartelli incomprensibili, strade anche il dissesto della strada in certi punti, tutte cose che hanno comunque registrato la necessità di intervenire. Però fermo restando, rimangono tutte con cause. La causa principale è quella umana di chi guida. Grazie dottoressa Pennisi, grazie Riccardo Alemanno, a domani.